Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Mi chiamo Antonio e faccio il cantautore, e mio padre e mia madre mi volevano dottore. Ho sfidato il destino per la prima canzone, ho lasciato gli amici, ho perduto l'amore. Quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita. Siamo spettatori forse inconsapevoli di una rivoluzione epocale. Negli ultimi 100 anni la vita si è allungata. In Italia vivono oltre 15.000 centenari e tra poco un terzo della popolazione avrà più di 65 anni. Direi, cari amiche, cari amici, che possiamo essere soddisfatti. Ci è andata bene, abbiamo avuto condizioni igieniche, ambientali più favorevoli, i progressi della medicina hanno fatto il resto, ma se l'idea di vivere a lungo da un lato ci alletta, dall'altro ci mette un po' in difficoltà, ci fa paura. Questo surplus di anni meriterà di essere vissuto? E come saranno quegli anni? Cosa possiamo fare per assicurarci una longevità senza i danni e i rischi della vecchiaia? E quindi anni liberi da malattie croniche, disabilità come demenza, Alzheimer, Parkinson. L'allungamento della vita vi rallegra o vi fa paura? E cosa fate per prepararvi? Su che cosa puntate? Quali strategie pensate di adottare per vivere non solo più a lungo, ma in salute? 800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure potete scriverci un sms come sempre al 349 238 6666. Seguirci su Facebook e su Twitter, molti ci hanno già scritto, leggerò tra poco i vostri messaggi, i vostri post, i vostri tweet, ma prima voglio presentare l'ospite che è qui in studio con me, la dottoressa Giovanna Luini, medico responsabile della comunicazione scientifico IEO, scrittrice e curatrice di Longevità, un libro di Umberto Veronesi. Buongiorno e bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dato che lei oltre che a medico è anche scrittore, io vorrei iniziare proprio dalle parole. Longevità non è sinonimo di vecchiaia. No, siamo noi che vogliamo che sia così. In realtà la longevità è vivere tanto a lungo, vivere oltre i 90 anni più o meno, anche se poi una definizione precisa non esiste, non è nemmeno corretta. Longevità, cioè vivere a lungo, attraversare tutte le fasi della vita, perché noi stabiliamo un'equivalenza tra longevità e vecchiaia, in realtà significa arrivare anche a un'età anziana o molto anziana. Parlare di vecchiaia significa dare immediatamente e in modo non giustificato una valenza negativa. Quando parliamo di vecchiaia pensiamo ai problemi della vecchiaia. Ogni fase della vita ha caratteristiche che possono anche essere belle, quindi perché non essere longevi e goderci tutto ciò che la vita ci porta? Questo è quello che ci auguriamo. 800240024 0024 su Facebook, molti messaggi. Mario ci scrive: magari prima di sperare di vivere a lungo dovremmo imparare a vivere. Dopodiché credo che il numero di anni sia relativo. Beh sì, questo è vero, perché in realtà noi esistiamo oggi, non vorrei entrare in una filosofia non adatta, però siamo vivi adesso, ciò che abbiamo è oggi, ieri è finito, domani arriverà ma non sappiamo bene come, e allora è vero, cominciamo a godere quello che c'è oggi e poi magari con tutti gli oggi facciamo una somma e arriviamo a 100 anni. Manuela ci scrive: vivere a lungo va bene se con le cure mediche si allunga il periodo della vita attiva, è proprio una sana longevità. Sì, mi permetto di fare un piccolo commento, non con le cure mediche, quelle sono fondamentali, lo dico da medico, è chiaro che le cure sono fondamentali se c'è un problema. In realtà noi abbiamo l'idea di vivere a lungo con lo stile di vita e con il piacere di vivere. Le cure ci aiutano a risolvere problemi, non sono le cure il segreto della longevità. E c'è una sostanziale differenza. 800240024, voglio leggervi invece il messaggio di Bea, che è biologa, lavora da diversi anni sui telomeri e sulla telomerasi, che sono legati all'invecchiamento. Le conclusioni alla quale io e altri colleghi, ci scrive Bea, siamo arrivati, consiste nel fatto che la nostra vita ha un termine, Perché con l'andare del tempo aumentano i danni a carico del nostro DNA, mentre invece dobbiamo trasmettere alle generazioni successive un DNA al massimo della sua longevità. Dottoressa Luini, la lunghezza dei telomeri sembra legata alla longevità. Sì, no? Esiste una teoria che hanno vinto teoria... anche un Nobel. Sì, Nobel esatto, per esatto. Il... La teoria dei telomeri. I telomeri non sono altro che la parte terminale dei nostri geni, no? delle parti di DNA. Questi telomeri si accorciano, si spezzano, vanno incontro a errori e allora la cellula muore. Esiste un enzima che noi abbiamo che si chiama telomerasi che ricostruisce questi telomeri. Paradossalmente, quando questo enzima impazzisce, li ricostruisce tanto da creare anche i tumori. Queste sono le varie contraddizioni della vita, no? La teoria dei telomeri esiste, è concreta, però non esiste una sola teoria per l'invecchiamento e neanche per la longevità. Quella dei telomeri è una parte. Allora noi abbiamo questo DNA che ha una sua lunghezza. L'ultima parte del DNA conta per dire quanto lunga sarà la nostra vita. Però ci sono altri aspetti che possono in qualche modo influenzare la durata della nostra vita. Rinnovo l'invito alle amiche e agli amici da casa. Questi anni in più che ci vengono promessi, possiamo dire così, dottoressa Luini? Sì, certo. Ci allettano o ci fanno paura? Che cosa temiamo della vecchiaia? Molto spesso anche il confronto con gli anziani, osservare gli anziani che ci stanno intorno, ci porta a fare delle riflessioni sul ruolo dell'anziano nella società, ma anche su come noi, no? potremmo diventare anziani. Che cosa dell'anzianità ci fa la paura? Il decadimento mentale, il decadimento fisico, la solitudine. 800 24 00 24. Ci sono però delle strategie che ci aiutano ad aggiungere non solamente anni alla vita, ma anche vita e qualità di vita a quegli anni. Se ne parla tanto anche a livello di ricerca, di convegni, dottoressa Luini. Sì. I capisaldi però ritornano quelli dello stile di vita sano. Sì, sì, decisamente. Sono due gli elementi fondamentali. Uno è lo stile di vita. Come vivo condiziona la durata della mia vita e la qualità in larga parte. E poi quanto esprimo me stessa, cioè a cosa mi dedico, quanto amore metto nelle cose che faccio. Questo è molto interessante. Ma dottoressa Luini, viviamo più a lungo in questi anni, no? Siamo diventati... Sì. Ma noi siamo programmati per vivere più a lungo, nasciamo per vivere, arrivare a 100 anni e poi qualche cosa facciamo di sbagliato, oppure questa è una... la vecchiaia è un regalo che così... Noi siamo programmati per vivere. Sì. La sfida è vivere e vivere bene. Poi ci possono essere però nel DNA e nei fattori esterni alcuni intoppi che ci creano gli ostacoli e quindi proviamo ad andare avanti. E di longevità si discute a Venezia a partire da domani sino al 21 settembre alla 9ª conferenza mondiale sul futuro della scienza, promossa da Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Giorgio Cini e Fondazione Silvio Tronchetti Provera. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Umberto Veronesi, direttore scientifico IEO. Professore, bentornato. Grazie a lei. La scienza, professore, punta a togliere alla longevità, diciamo, il peso della vecchiaia. Gli sforzi sono proprio orientati a eliminare il decadimento fisico, il decadimento mentale. Professore, ce la faremo? E cosa possiamo fare noi? Guardi, questo invecchiamento è abbastanza bizzarro nei suoi meccanismi, perché condanna il corpo a una decadenza quasi inevitabile e restabile, ma la mente rimane viva, vivace, attiva, creativa, ideativa. E su questo strano binomio, insomma, su questo strano doppio binario che stiamo cercando di capire perché uno e perché l'altro. Infatti persone anche di 100 anni possono essere attivissime, poeti di ogni tipo, pittori come Chagall o Picasso hanno lavorato fino a 90-100 anni. E un famoso De Oliveira, un vecchio regista cinematografico, ha fatto l'ultimo film a 104 anni, quindi la mente si comporta in maniera diversa dal corpo, che invece inevitabilmente si lentamente si deteriora. Dobbiamo aiutare il corpo a tenere il passo della mente o è una sfida impossibile? Non è facile, non è facile perché le cellule che compongono tutti i nostri organi hanno una vita limitata, insomma, mentre nel cervello probabilmente diminuiscono le cellule, come ha dimostrato la Levi Montalcini, che appunto ha lavorato bene fino a 103 anni, e ha dimostrato che le cellule possono diminuire di numero, ma aumentano le cosiddette sinapsi, cioè i collegamenti tra una cellula e l'altra. Quindi si perde un po' magari di memoria pura, ma si conquista in termini di ragionamento e di ideazione. Professore, nel programma del convegno che si apre domani, alla Conferenza Mondiale sul Futuro della Scienza che si apre domani a Venezia, il programma è molto ricco, ho visto che si torna a parlare di restrizione calorica, una via per vivere più a lungo. Sì, l'alimentazione elemento importante e la regola che per l'invecchiamento, ma in genere per tutte le malattie, è quella di mangiare poco. Chi mangia poco, quindi con minor calorie, vive più a lungo. Professore, prima di salutarla, nel suo libro Longevità c'è una parte dedicata anche all'attività sportiva. Tutte le volte che noi parliamo di stile di vita sano si raccomanda un'attività fisica regolare, no? Qual è la sua posizione riguardo all'attività fisica? Aiuta a invecchiare bene o rischia di consumarci? Guarda, l'attività fisica negli anni giovanili è una necessità quasi biologica, quella di rendere più forti i nostri muscoli e tutto il nostro corpo. Poi col passare degli anni perde importanza l'attività fisica. Credo che sia più importante dedicare la nostra attenzione all'attività mentale, perché esercitando quella rimane viva. Mentre anche fisicamente, insistendo fino all'età già sopra i 50 anni, la decadenza è inevitabile. Quindi, professor Veronesi, a partire dai 50 anni meno maratone e più lettura? Esattamente. Bravo, mi piace. Professore, grazie, un abbraccio. Buona Venezia, grazie. Grazie. Osvaldo ci chiama da Napoli, buongiorno. E poi Mario da Como, benvenuto. E posso? Osvaldo, eccola. Sì. Vado. Vada. Niente, raccontato così sembra un bel sogno, in effetti, però per la mia esperienza personale, per esempio, io soffro di un disturbo sulla memoria a breve termine, quindi che ho scoperto a 40 anni di avere dalla nascita, ma a 40 anni si è un po' evoluto, quindi l'allungarsi della vita mi fa un po' paura per questa cosa qui. Però poi dico, anche nel vostro discorso, di mettere insieme anche quello che sono le correlazioni sociali, nel senso che vivere di più significa lavorare di più in questo periodo in cui il futuro è incerto, e quindi alla fine entri in un tunnel di pessimismo, perlomeno io parlo per me, sì. Entri in un tunnel di pessimismo, avendo pure figli, dicendo ma vale la pena? Vale la pena. Intanto io la invito a continuare a seguirci perché tra poco ci dedicheremo proprio alla memoria, al cervello. Siamo in attesa del professor Alberto Albanese, direttore della neurologia e professore di neurologia al BESTA di Milano, con cui cercheremo di capire, no, cosa funziona nel nostro cervello, se è possibile far invecchiare bene il cervello e come invecchia rispetto agli altri organi. Questo per il suo problema di memoria. Ma dottoressa Luini, Osvaldo ci invita, sì, ad una riflessione più ampia. Importante, molto importante. La qualità di ciò che viviamo. Noi siamo strutturati in termini di società per funzionare bene. Quando qualcuno funziona un po' meno bene, per età o per difetti fisici che possono in qualche modo limitare la vita, allora non va più bene, perché non abbiamo la capacità di adattare il nostro pensiero, oddio, quello sarebbe molto plastico e potremmo adattarlo, ma la struttura sociale a chi funziona in modo diverso da noi. Questo nel caso della longevità è importante, ha un impatto importante, perché abbiamo sentito Umberto Veronesi, che senz'altro di anni non ne ha 100, ma ha qualche anno più di noi. Bene, dirige l'Istituto Europeo di Oncologia benissimo dal punto di vista scientifico e abbiamo sentito come ragiona e come ci insegna le cose. Dovremmo essere pronti ad accettare nella società anche chi ha un funzionamento fisico leggermente diverso dal nostro o diverso dal nostro in modo evidente, perché può comunque contribuire e allora la qualità della vita diventa senz'altro molto migliore e diventa molto migliore il nostro pensiero sulla longevità. E andiamo a Como, Mario ci chiama all'800240024, benvenuto, buongiorno. Questo surplus di anni, In questo surplus di anni, io ne ho 68, io ho tanta, tanta voglia di viverli questi anni in più, ma mi fanno anche tanta paura. Io ho soprattutto paura di perdere la memoria, quello che dicevate prima, o comunque di avere delle defaillance. Ho addirittura pensato che qualora dovessi capire da me stesso che non è, mi suicido. E tanta la. Sì, è tanta la paura di non essere più efficiente. Io ho fatto una vita molto movimentata, ho girato il mondo, un lavoro che mi piace e che continuo a fare, che cercherò di continuare a fare fino all'ultimo giorno. Credo di avere delle aspettative, in quanto parlavate di genetica, mio padre è morto oltre 100 anni e tutta la mia famiglia è abbastanza longeva. Però da un lato sono contento, anche perché per ora li sto vivendo molto bene, non ho acciacchi. Ma ho una paura enorme proprio di questo, della demenza, la paura enorme di non essere autosufficiente e di avere il ludibrio in fondo degli altri, perché quando non si è autosufficienti io vedo intorno a me che la situazione diventa grave. E mi arriva quasi un parossismo e io le devo confessare che tengo sempre nel mio cassetto qualcosa che un giorno che dovessi avere non voglio più vivere. Il timore, il decadimento del decadimento mentale è sicuramente molto condiviso, molto diffuso. Arrivano tantissimi messaggi e per fortuna in linea con noi abbiamo il professor Alberto Albanese. Buongiorno, professore. Buongiorno. Direttore della neurologia e professore di neurologia all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, che avevo già annunciato. Professore, è possibile, parlare di prevenzione? Il cervello può difendersi dagli anni e dalle malattie degli anni che lo colpiscono? Sì, bisogna secondo me in primo luogo guardare le differenze del cervello rispetto agli altri organi, che sono principalmente due. La prima è che le cellule nervose hanno un metabolismo e dei componenti metabolici particolari. E la seconda è che il sistema nervoso è suddiviso in aree diversificate, che sono numerose, e sul piano funzionale fanno compiti diversi. Quindi nutrire le cellule nervose è diverso che nutrire il resto dell'organismo, è necessario un apporto equilibrato, evitare sbilanciamenti e con un po' di impegno si può aiutare il nostro cervello a funzionare a lungo, diciamo. Ci sono delle avvisaglie che noi avvertiamo come segno di un deterioramento della nostra attività mentale, che invece sono assolutamente segnali fisiologici. Mi riferisco ad esempio alla memoria o alla difficoltà nell'imparare cose nuove. Che fa paura è il decadimento cognitivo e così la paura di molti, anche espressa dall'ascoltatore prima. E le persone che hanno questo tipo di decadimento in genere sono consapevoli, perlomeno in parte, dei sintomi che hanno e se ne rendono conto, e questo è in gran parte causa dell'angoscia che si associa a questo tipo di perdita e che forse ha motivato anche l'ascoltatore prima a esprimere la sua paura. Andiamo a Cristina che ci chiama da Rimini 800240024. Cristina, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Buongiorno. a lei. Mi dica. Buongiorno a tutti. Allora, io chiamo da Rimini, ho 52 anni, sono una persona molto attiva, ho dei genitori anziani, ma tuttora con una voglia di vivere incredibile. hanno 80 anni, sono in ottima salute e sono sempre pieni di interessi. Mio padre viaggia perché ha la passione della caccia, viaggia all'estero, viaggia da solo anche. E ci hanno insegnato tanto, ma io seguo tanto gli insegnamenti di Veronesi, quindi sono una persona che mangia poco, faccio molta ginnastica, anche se ho passato i 50 anni, mi alzo la mattina molto presto, infatti le vostre trasmissioni le ascolto sempre in podcast la mattina alle 5 e non ho mai la possibilità di intervenire perché lavoro. E non ho paura, non ho paura, non ho assolutamente paura e non avrei neanche paura di invecchiare con dei problemi, perché ho una bella famiglia e secondo me gli affetti sono importanti. Allora, sarebbe questo un intervento di Cristina così estrapolarlo e ogni tanto sentirselo. Io vorrei un commento, perché ricarica, io vorrei un commento dalla dottoressa Luini e dal professor Albanese. Dottoressa Luini. Ma è bellissimo e credo che la presenza di una struttura familiare rassicurante e effettivamente concreta sia fondamentale, così come è fondamentale l'amore. Mi sembra che in tutto questo ci sia una grandissima dose d'amore che è il segreto vero. Professor Albanese. Sì, genitori anziani, attivi, possiamo dire di ci danno una garanzia in più sul nostro invecchiamento? Sì, la componente genetica sicuramente può essere scrutata guardando i propri antenati, i genitori in primo luogo. È chiaro che se si appartiene ad una famiglia di longevi si ha più probabilità di essere longevi. È una delle due parti da cui noi siamo composti, il genoma e l'ambiente. L'ambiente è la parte che noi ci scegliamo, quindi è lo stile di vita, gli incontri ambientali in senso alimentare, in senso di sostanze tossiche, di batteri, di microrganismi che noi facciamo durante la vita. Tutto questo porta a quel mix che noi siamo e che noi diveniamo nel tempo. Noi possiamo scrutare o cercare di studiare anche con metodiche moderne, come fanno certi laboratori americani, anche molto commerciali, che cercano di studiare i geni a rischio di una serie di malattie anche neurologiche, ma soprattutto possiamo decidere la parte ambientale, che è la parte libera, come vogliamo vivere, e lì possiamo fare una metà della storia che dipende da noi. Come stiamo vivendo, come vorremmo vivere e invecchiare, aggiungere anni alla vita, ma quali anni e che qualità a questi anni? Essere e benessere. La salute. Se devo mangiare 9 porzioni di frutta e verdura al giorno per vivere, non voglio vivere. Io detesto la frutta e la verdura. E i vostri omega 3, e il tapirulan, e l'elettrocardiogramma, e la mammografia, e la risonanza pelvica, e, oh mio Dio, la coloscopia. E con tutto ciò, arriva sempre il giorno in cui vi ficcano in una scatola. È magnifico, professor Albanese, l'aveva visto questo film? No, non l'ho visto, mi spiace. È veramente, è stupendo. Però alla fine si dice anche così, ma quanto mi fate pagare, quanto mi tormentate per vivere sani? Professor Albanese, torniamo a noi, perché lei sa che lei non può vederlo, ma arrivano tantissimi messaggi, perché il cervello affascina, non solamente il suo funzionamento, ma vogliamo anche capire come invecchiare bene, nel pieno possesso delle facoltà fisiche e mentali. La familiarità, quindi avere in parenti vicini o meno vicini con malattie neurodegenerative, può essere un fattore di rischio? In generale sì, però naturalmente dobbiamo considerare che abbiamo dei fattori genetici che si esprimono in maniera forte e altri che si esprimono in maniera debole, quindi poi andrebbe visto nella singola persona questa potenziale ereditarietà che forza ha di esprimersi, e quindi non è affatto detto che poi una persona che ha dei familiari con certe malattie debba ammalare di quelle malattie, è tutto piuttosto complicato. Io credo che sia importante ricordare che i neuroni sono con noi tutta la vita, nel senso che sono cellule estremamente diversificate e quindi non si riproducono, quindi fin dalla nascita manteniamo i nostri neuroni, dobbiamo quindi tenerne conto, curarli al meglio, e l'altro aspetto da ricordare è che i neuroni sono fatti per funzionare, quindi utilizzare il cervello e le sue capacità aiuta a mantenere lo stesso cervello più longevo, quindi ci vuole un buon esercizio anche mentale o anche motorio o anche di alimentazione per accudire i nostri neuroni, che dobbiamo tenerci cari assolutamente. Mi piace questo accudimento dei neuroni, che passa attraverso, come sottolineava il professor Albanese, anche all'alimentazione, all'attività sportiva. Qua c'è una contraddizione sembra con quello che dice il professor Veronesi. Dottore Salvini. Beh, per quanto riguarda l'attività fisica, le ipotesi sono tante. Non esiste veramente però uno studio che abbia direttamente correlato l'attività fisica alla longevità. Esistono tanti studi che correlano l'attività fisica al miglioramento del benessere o alla riduzione del rischio di alcune malattie, questo sì. In relazione alla longevità no, veramente no. Però si è portati a dire meno malattie, certo, più naturalmente, vita, quantomeno più vivo meglio, di vita. Sì, vivo più sano. Per quanto riguarda l'uso dei neuroni, mi piace molto questo, perché noi abbiamo tanti stimoli, abbiamo tanti mezzi, siamo pieni di mezzi e di possibilità. Quando io sto sui social network, perché me ne occupo tantissimo anche per lo IEO, vedo persone che sono lì, che cercano di interagire, ma vedo anche che, per esempio, l'uso del web, lungi dall'essere sempre uno stimolo, può addormentare. Allora i neuroni vanno un po' lucidati, no? Vanno usati, sono lì per qualche motivo, usiamoli. Come si fa a lucidarli addirittura, professor Albanese? Rispettandoli e utilizzandoli nel modo consono alla loro funzione. Il sistema nervoso è fatto di varie componenti, la componente motoria funzionerà meglio se controllerà il movimento in maniera funzionale e con attenzione, la componente cognitiva funzionerà meglio se sarà utilizzata per ragionare, per fare la sua parte, e così il cervello funzionerà meglio se utilizzato in maniera equilibrata. Molti di voi mi stanno chiedendo: ma esistono dei test per individuare proprio nelle fasi iniziali eventuali malattie neurodegenerative? 800 24 00 24, ne parliamo subito dopo aver dato la linea a Beppe dalla provincia di Cuneo e ad Angela da Roma. Beppe, buongiorno. Buongiorno. Fare un'altra parentesi, scusi, che mi è venuta in mente, perché molti di voi mi dicono: ma che titolo era il film che neanche il professor Albanese ha visto? E io non ve lo voglio dire, perché potete chiamare l'800 24 00 24, c'è un titolo, scrivetelo, potete mandare un messaggio al 349 238 6666, potete scrivere su Facebook al primo dell'ascoltatore che avrà scritto, mandato un messaggio Facebook, ruberò due libri alla dottoressa Luini di longevità e ve lo farò arrivare a casa. Quindi il titolo poi lo saprà anche il professor Albanese e glielo faremo vedere. Beppe dalla provincia di Cuneo, sì. Scusi perché sì, mi ero dimenticata, vede? Nessun problema. Sa, è un po' l'età, sì. Ormai la memoria, il professor Albanese dice di non preoccuparsi, ma io sto perdendo i colpi. E lei, Beppe? E io pure. Ecco. Allora, io ho 54 anni. Sì. Fisico piuttosto massiccio, più di 1,80 e più di 100 kg di peso. Mm. Mi sono sottoposto a diete, ma lasciamo perdere perché è stato un disastro. Io sono stato lavoratore dipendente per 35 anni, poi la ditta dove lavoravo, grazie a una brava persona, ha chiuso, non facciamo nomi, vabbè. E allora mi sono ritrovato a fare l'agricoltore con i miei genitori, un tipo di vita molto sano. Però col passare degli anni devo dire che purtroppo ho notato che sto perdendo la memoria, sebbene io faccio la settimana enigmistica, cerco di leggere, di interessarmi, sì, di guardare o sentire programmi furbi, che oggi la televisione e la radio ne propinano ben pochi. E poi a 53 anni è successo che ho trovato l'amore e non immaginavo mai più. Dai, ma questo mi piace! E quanti anni ha lei? Scusi, io. Alla mia ragazza, la mia ragazza ne ha 42. Perfetto. Professor Albanese, abbiamo trovato anche l'amore. Sì, io diffido in senso buono da una persona che in maniera molto precisa e molto efficace dice di aver perso la memoria, nel senso che poi tutto questo è testabile, si può verificare se c'è una reale perdita. Basta, sottolineo che basta una difficoltà di attenzione, il distrarsi, per esempio una persona innamorata ha meno attenzione per dare l'impressione di avere meno memoria, ma in realtà il deficit è di attenzione e non di memoria. Quindi noi dobbiamo ovviamente in termini neurologici dare un senso ad ogni singola funzione. Quindi quello che ci dice il paziente va tradotto poi in concetti neurologici e potrebbe in questo caso risultare che non c'è in realtà un deficit di memoria. Però si può, se siamo tormentati dal dubbio. Sì. E se viviamo male questa nostra, noi possiamo, affidandoci ad uno specialista, capire che cosa ci sta succedendo, se lo stress, se la disattenzione o se invece sono segnali che vanno sì. presi con più attenzione, professore. Sì, sì, assolutamente sì. Sì, i medici, i neurologi sono in grado di valutare tutto questo e di dare una risposta precisa e poi di indirizzare la persona che ha questi timori. D'altra parte non si può vivere di timori, per cui bisogna anche tener presente che bisogna fare la propria vita anche con una certa, diciamo, rilassatezza. Essere e benessere. È il 28 settembre 1997 e sono le 11 in punto del mattino. Alla Giostra del Trono, a due passi dal trenino dei Carpazi, la macchina per impastare i dolci impasta i dolci. Nello stesso momento, su una panchina di Place Villette, Félix L'Herbier scopre che ci sono più connessioni possibili nel cervello umano che atomi nell'universo. Ed eccoci tornati insieme, professor Albanese. Perché il cervello continui a funzionare bene ed essere in forma, è necessario che anche altri organi lo aiutino a mantenersi giovane e attivo. Insomma, vorrei capire da lei se ci aiuta a individuare quelli che possono essere i fattori di rischio che spesso noi trascuriamo perché non conosciamo la stretta relazione che hanno proprio con il funzionamento del nostro cervello e l'efficienza del nostro cervello. Sì, i fattori di rischio possono dipendere da altri organi, uno dei più importanti e anche discussi poco sono le difficoltà circolatorie, l'ipertensione arteriosa cronica. Le cellule nervose sono delicatissime e il parenchima del sistema nervoso soffre facilmente in persone che sono ipertese, magari hanno un'ipertensione notturna di cui possono non essere consapevoli. Si pensa spesso alla circolazione in rapporto all'ictus, quindi ad eventi acuti. In realtà la circolazione cronicamente deficitaria può creare uno stress cronico e facilitare molto le malattie degenerative, perché di fatto i neuroni che, come abbiamo detto, ci accompagnano tutta la vita, accumulano facilmente composti ossidanti o metaboliti che non sono diciamo adatti al loro funzionamento, anzi sono negativi per il loro funzionamento, e quindi se sono stressati in maniera continuativa possono andare incontro a degenerazione. Quindi è importante in realtà controllare il benessere generale dell'organismo per avere un cervello in benessere. Insomma, per stare bene ci vuole testa. Sì. Dottoressa Luini. Sì, io ho una domanda, se posso, per il professor Albanese, perché scrivendo longevità ho riflettuto molto su un dato, e cioè che indipendentemente dall'area geografica, tra i più longevi del mondo ci sono gli artisti. Ora, senza andare a artisti di livello, riflettevo sul fatto che creare, quindi esprimere se stessi, anche se vogliamo in una creatività molto quotidiana, molto spicciola, sembra protettivo, quindi volevo un commento dal professore su questo. Sì, diciamo ufficiali dell'arte, assolutamente sì, poi ci sono artisti della vita che magari non sono classificati certo. in modo ufficiale. Certo. L'usare in maniera attiva, direi proattiva, le funzioni cerebrali aiuta a vivere meglio, a far vivere meglio il cervello, e gli artisti sono un esempio di questo tipo, perché si applicano in maniera programmatica, in maniera creativa, e così lo stesso vale nella vita, anche il pianificare il più possibile le attività o le proprie decisioni o negli spazi che sono consentiti aiuta moltissimo. Andiamo a Roma, c'è Angela che ci aspetta. Buongiorno Angela, benvenuta. Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno a tutti, grazie. Allora, io sono arrivata forse per ultima, però mi sento molto risollevata perché tutto quello che ho sentito finora io lo faccio. Brava. Quindi, sì, e tanto è vero che mi dicono tutti, soprattutto da quando sono in pensione, che sembro ringiovanita. Però chiaramente ho fatto anche molta prevenzione, chiaramente il mio è anche un fatto genetico, quindi piccoletta, scattante, dimostra anche di me. Una peste, insomma, in poche parole, come sono stata quasi sempre, salvo sul lavoro che ero molto disciplinata. Ora, quindi non ho altro da aggiungere, l'alimentazione, lucidare i neuroni. Insomma, sappiamo, noi ci stiamo preparando ad affrontare una longevità. Sì, vada. Sono a posto, sì, vi posso confermare che paga. Volevo dire solo due cose. La memoria, anche questo il professore l'ha detto, perché chiaramente ai primi colpi persi, oddio, c'ho l'Alzheimer, sono andata dallo specialista, sì, che poi mi segue ogni tanto, e mi ha detto esattamente quello che ha detto il professore. Quindi, allora l'abbiamo, quindi a volte è distrazione, ecco, e un pochino di perdita di memoria, certo, vabbè, dai, la mettiamo in conto un però po'. Una cosa non avete detto, mi sembra, e io la voglio aggiungere, sì, è anche molto questione di carattere e di come si affrontano gli anni che passano. Certo, perché come a dire, Angela, perché voglio dare anche la linea a Carla, cuor contento il ciel aiuta, banalmente, perché anche l'ottimismo, il modo di prendere la vita, di non andare sempre contropelo, insomma, aiuta. Carla da Modena, buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno. Io ho 92 anni. Grande. Grande! Ma l'aspettavo, Carla. Ecco, non sono una sportiva, ma cammino a lungo. Sì. E soprattutto continuo a leggere e anche libri in tedesco, perché io sono stata insegnante di lingua e letteratura tedesca. Quindi sono autonoma, guido la macchina, viaggio ancora da sola, sì, e aspetto con serenità la fine. Cosa vuole che le dica? Non vorrei che venisse mai. No, però. No, speriamo più tardi possibile, Carla, e io dico che voglio diventare come Carla. Che abbraccio e saluto e ringrazio per essere stata con noi. Professore Albanese, un paio di minuti, perché abbiamo parlato molto di prevenzione, ma oggi che cosa abbiamo a disposizione per curare le malattie neurodegenerative? Siamo più bravi rispetto al passato? Sì, siamo più bravi, abbiamo un certo numero di terapie sintomatiche che oggi sono disponibili, che possono migliorare i sintomi, e questo non è poco, perché quindi alleviare i sintomi significa far fare un po' marcia indietro alla fenomenologia e quindi far star meglio il paziente e anche chi gli è intorno. E la grande sfida è quella delle terapie che possano bloccare queste malattie degenerative. La partita è molto complessa e ha molte variabili al suo interno, però ci sono idee, ci sono studi che sono stati fatti, alcuni hanno dato alcuni risultati promettenti, altri sono stati negativi. Naturalmente gli studi clinici costano moltissimo e quindi solo un ridotto numero di molecole può essere testato. E poi il terzo piano sono le possibilità trofiche, cioè di nutrire le cellule attraverso elementi biologici, quindi che siano cellule di vario tipo che possano produrre fattori positivi, fattori trofici. Quello che non è facile, probabilmente è impossibile nel cervello, è di rimpiazzare i neuroni, perché noi siamo in grado di far sviluppare nuove cellule nervose, ma non c'è lo spazio, non si saprebbe dove inserirle. E questo probabilmente è un obiettivo che non ci si può attendere. Professor Albanese, grazie per essere stato con noi. Il titolo era Basta che funzioni, tanto se vuole vederlo, poi mi racconta se le è piaciuto. Grazie. I nostri ascoltatori all'800240024 non hanno indovinato. Sì, invece un ascoltatore al 349-238-6666 che riceverà il libro. Benissimo. Complimenti. Intanto grazie alla dottoressa Luini che ci fornirà anche l'altro libro. Magari qualcuno ha risposto su Facebook. Gianmarco Ferroni nato in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, Giovani Neuroni Giovani, ma noi non dimenticate, ci sentiamo domani. Essere e benessere.